giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Più di un elettore su due del Friuli Venezia Giulia sceglie il centrodestra, Fratelli d'Italia, oltre il 30%. Il PD al 18%, terzo partito la Lega con l'11, Azione Italia Viva oltre l'8, superando i 5 Stelle. Eletti Ciriani al Senato, Panizzuto, Rizzetto e Gava alla Camera, dalla quota proporzionale altri 3 senatori e 5 deputati. Affluenza in calo in regione alle urne, il 66,21%, superiore al 63,91% nazionale. Nel 2018 era stata oltre il 75%. Arrivata nelle Marche l'autocolonna della Protezione Civile regionale con 60 fra volontari, tecnici e infermieri. Nonostante l'autunno a grado, la stagione turistica continua. Negli alberghi ci sono prenotazioni fino a novembre. Inaugurato il rifugio EMPA di Udine, i padiglioni per cani e gatti senza famiglia finanziati all'80% da donazioni private. Vince di nuovo il trofeo 1001 Vela Cup l'Università di Trieste, barca progettata, costruita e condotta dagli studenti. 7:19 minuti di lunedì 26 settembre, buongiorno da Anna Vitaliani e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è poco nuvoloso in montagna, da variabile a nuvoloso sul resto della regione. Alle 6 a Trieste c'erano 16,5 gradi, a Pordenone 13,5 gradi, a Gorizia 12,5, a Udine 12 gradi, a Tolmezzo 13,5 gradi, a Tarvisio 9,7 gradi, a Forni di Sopra 5,5 gradi, a Sappada sul Piancavallo 4,5 gradi, su Monte Lussari e Monte Zoncolan 4 gradi, a Lignano e a Grado 17 gradi, temperatura del mare 21. Le previsioni oggi: nuvolosità variabile con più nubi sulla fascia prealpina, saranno possibili rovesci o temporali più probabili nel pomeriggio, alternati a fasi di bel tempo, brezza sulla costa. Il centrodestra in Friuli Venezia Giulia è maggioranza assoluta dei votanti, più del 50%, conquista circa il doppio dei voti della coalizione di centro-sinistra. Terza forza in questa tornata elettorale, Azione Italia Viva con l'8,5%, che supera il Movimento 5 Stelle. Tra i partiti, Fratelli d'Italia conquista quasi un elettore su tre, è uno dei migliori risultati a livello nazionale. Il PD si ferma al 18%, terzo partito la Lega, ma con l'11% per il Carroccio in regione i consensi sono più che dimezzati. Altro dato, l'affluenza in calo, anche qui un elettore su tre non è andato a votare. Andiamo nel dettaglio dei numeri e cominciamo dai collegi uninominali, tutti conquistati dal centrodestra, e si tratta di 4 parlamentari uscenti che sono riconfermati. In quello del Senato, che era unico per tutta la regione, la vittoria è andata a Luca Ciriani per Fratelli d'Italia, ha conquistato il 50,31% dei consensi contro il 25,59% di Furio Honsel del centro-sinistra. Sono invece 3 i deputati eletti in regione. Nella circoscrizione 1 Pordenone Montagna ha vinto Vanna Gava della Lega, superando Gloria Favret del PD. Nella circoscrizione 2, quella di Udine, Walter Rizzetto, segretario regionale di Fratelli d'Italia, ha doppiato Manuela Celotti del PD. Nella circoscrizione di Trieste il deputato eletto è Massimiliano Panizzut, che precede la Dem Caterina Conti. E questi in dettaglio sono i risultati delle liste alla Camera, ormai pochissime le sezioni ancora da scrutinare. Fratelli d'Italia 31,45%, il partito di Giorgia Meloni ha quintuplicato i suoi consensi rispetto al 2018. Partito Democratico 18,36%, sostanzialmente stabile rispetto a 4 anni fa. Lega per Salvini Premier 11,01% rispetto al 25,86%. 6%, più che dimezzato quindi il consenso per il Carroccio. Azione Italia Viva Calenda 8,62%, il terzo polo supera come detto il Movimento 5 Stelle a 7,12%, consensi per i pentastellati ridotti a meno di un terzo rispetto a 4 anni fa. Forza Italia al 6,73%, era al 10,68%, quasi dimezzato anche qui il consenso per il partito di Berlusconi. Alleanza Verdi e Sinistra 3,71%, Italexit per l'Italia 3,22%, Più Europa 3,26%, anche in questo caso consensi grossomodo confermati rispetto alla precedente tornata per il Parlamento. Italia Sovrana e Popolare 1,94%, Vita 1,49%, Unione Popolare con De Magistris 1,27%, Noi Moderati, Lupi, Totti, Brugnaro, UDC 0,94%, Impegno Civico, Luigi Di Maio, Centro Democratico 0,39%, Alternativa per l'Italia, No Green Pass 0,38%, Mastella, Noi di Centro Europeisti 0,12%. Grosso modo simili risultati arrivati per il Senato, vediamo anche in questo caso il dettaglio. Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni al 32,65%, Partito Democratico al 18,15%, Lega per Salvini Premier 11,01%, Azione Italia Viva Calenda 8,17%, Movimento 5 Stelle 7,27%, Forza Italia 6,45%, Alleanza Verdi e Sinistra 3,7%, Italia Exit per l'Italia, Italexit per l'Italia 3,08%, Più Europa 3,32%, Italia Sovrana e Popolare 1,88%, Vita 1,51%, Unione Popolare con De Magistri 1,13%, Noi Moderati, Lupi, Totti, Brugnaro, UDC 0,79%, Impegno Civico, Luigi Di Maio, Centro Democratico 0,38%, Alternativa per l'Italia, No Green Pass 0,39%, poi Mastella, Noi di Centro Europeisti 0,12%. E ora alcuni commenti dei protagonisti di questa tornata elettorale. Cominciamo da Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia. Risultato importantissimo per Fratelli d'Italia a livello nazionale, risultato altrettanto importante per Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Se i dati sono confermati, si conferma il primo partito del centrodestra in una coalizione di centrodestra che evidentemente stravince questa tornata elettorale. Ancora nessuna reazione ai risultati del voto della Lega. Sentiamo ora Franco Dalmas di Forza Italia. In Friuli Venezia Giulia addirittura il centrodestra supera il 50% e quindi è in maggioranza assoluta. E rispetto a questo la presenza di Forza Italia costituisce un elemento di riequilibrio all'interno di una coalizione che avrebbe dovuto quantomeno dall'inizio prevedere una rappresentanza uninominale da subito anche per il partito di Forza Italia. Per la coalizione di centrosinistra, Deborah Serracchiani, capogruppo PD alla Camera. Questa responsabilità dovrà essere ben giocata in Parlamento, dove con questa legge elettorale la destra è maggioranza in Parlamento, ma non è maggioranza nel Paese. E questo ci dà davvero una grande responsabilità rispetto a quelli che saranno passaggi che riteniamo molto molto delicati per il Paese. Ora Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, terzo polo con Azione. Un mese fa non esisteva neanche il terzo polo. In un mese abbiamo fatto un risultato straordinario, anche perché era estate, abbiamo fatto 10 giorni praticamente di campagna elettorale. Quindi vedremo quali saranno i dati definitivi, ma mi sembra che comunque ci sia un pezzo d'Italia che non si riconosce né nella destra che si sta affermando, né nella sinistra che ha deciso di rinunciare alla campagna elettorale strada facendo. Infine Luca Sut, Movimento 5 Stelle. È stata una campagna elettorale breve ma molto intensa. Come Movimento 5 Stelle abbiamo dato il massimo e penso che non si poteva fare di più di quello che abbiamo fatto. L'affluenza però rimane il punto debole di tutte le ultime elezioni. In alcune zone del nostro paese è ancora troppo bassa. La politica dovrà farsi carico del problema dell'astensionismo ancora troppo alto. Troppi giovani e delusi continuano a non partecipare al voto. In Friuli Venezia Giulia l'affluenza alle urne è stata del 66,21% contro il 75,12% del 2018. Affluenza superiore a quella nazionale che è stata del 63,91% contro il 72,94% delle elezioni del 2018. L'affluenza più elevata a Pordenone con il 69,07%, seguono Udine 66,85%, Gorizia 66,14, infine Trieste 61,03. E chiudiamo per ora il capitolo elezioni, che naturalmente seguiremo nei prossimi appuntamenti con l'informazione radiofonica e televisiva della TGR Friuli Venezia Giulia. Una nuova colonna della Protezione Civile Regionale partita ieri per le Marche in aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione. Da oggi i volontari saranno impegnati nella rimozione di fango e detriti. Sono arrivati ad Ostra, in provincia di Ancona, dopo circa 8 ore di viaggio i 54 volontari provenienti da 27 comuni diversi della regione, i 5 funzionari della Protezione Civile e i 3 infermieri della Croce Rossa a bordo di 29 mezzi, a cui si aggiungono 5 rimorchi e 3 macchine operatrici. Ad Ostra il personale sarà ospitato nella palestra comunale o soffriranno di una cucina da campo già allestita. Si occuperanno della rimozione di fango e detriti, in particolare nella zona industriale di Ostra e, su richiesta, anche in altre aree colpite dall'alluvione. Amedeo Aristei, direttore Protezione Civile regionale. In un primo momento si stimava una partenza per 80 persone, poi con la riassegnazione da Senigallia a Ostra è stato necessario rimodulare sia le attrezzature che il personale, e quindi i volontari che si sono resi disponibili sono più che sufficienti. Tanti volontari, tra cui alcuni giovanissimi e qualcuno alla prima esperienza fuori regione, come Marianna Piussi, 22enne, volontaria di Protezione Civile di Chiusaforte. Un senso di altruismo, di solidarietà, del voler aiutare delle popolazioni fragili in questo momento. Paolo Mazzolo, 19 anni, volontario di Protezione Civile di Martignacco. Avendo finito, diciamo, scuola da poco e avendo un po' questo periodo di, diciamo, di pausa, mi rende fattibile magari aiutare come posso, pensando magari anche al terremoto qui in Friuli. Mattia Casali, 19 anni, volontario di Protezione Civile di Martignacco. La volontà di dare una mano alle persone che hanno più bisogno rispetto a noi, e seguendo anche quelli che sono stati gli insegnamenti di mio nonno, di mio papà e anche dello zio, che sono sempre stati parte del gruppo di Protezione Civile di Martignacco. Al momento il rientro della colonna mobile è previsto per venerdì prossimo. Palmanova, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tempo di bilanci per gli operatori balneari che, anche a Grado, stanno chiudendo i loro stabilimenti. Per molti albergatori dell'Isola d'Oro, invece, è il momento di decidere se restare aperti o fermarsi fino alla prossima primavera. A pesare, come ovunque, il rincaro delle bollette. L'autunno di Grado porta gli ultimi canti sulla spiaggia, mentre a pochi passi sul bagnasciuga qualcuno vuole ancora assaporare la carezza delle onde. Maddalena Grillo, imprenditrice balneare a Grado Pineta. Qui in spiaggia la stagione è andata alla grande. Soprattutto maggio e giugno non ci aspettavamo un'affluenza così elevata di turisti, che ha superato addirittura i maggio e giugno delle stagioni pre-Covid. E ho notato negli altri mesi comunque tanti turisti da tutta Europa. Per quanto riguarda i costi, ho notato una grossa differenza dall'anno scorso, dove per 2 mesi avevamo una bolletta di 2.500 euro, ci siamo ritrovati quest'anno con 2 mesi una bolletta di 9.000 euro. Però ho saputo che il prezzo del gas sta pian piano scendendo, quindi sono fiduciosa che in un futuro possa tornare un po' tutto alla normalità. Intanto è già iniziato il ricambio dei vacanzieri, partono gli ultimi gruppi dell'estate ma arrivano gli autunnali e gli albergatori che non si sono arresi al Covid di certo non si arrendono ai rialzi nei costi energetici. L'albergatore Fabio Sesti. La nostra idea è di non chiudere, statare anche un po' questo pessimismo che sta montando, Certamente la crisi energetica si fa sentire, però se chiudiamo è come perdere una battaglia. Noi abbiamo prenotazioni per tutto il mese d'ottobre fino a novembre, è assurdo chiudere tutto. E ho appreso con stupore, anche con un certo rammarico, che le sabbiature chiudono. In più ci si mette la chiusura della piscina termale, il che diventa proprio preoccupante, perché alla fine è come se Grado diventasse un paese di anime morte. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra il 29 di settembre, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, organizza, a partire da oggi fino al 2 ottobre, l'Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari, con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco e patologie valvolari e scompenso cardiaco. Le strutture nel network dei Bollini Rosa in regione sono gli ospedali di Trieste, Catinara e Maggiore, il Burlo Garofalo e poi gli ospedali di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Si possono effettuare visite check-up gratuiti con la dottoressa Serena Racar, coordinatrice dell'iniziativa per il reparto di cardiologia e emodinamica. Facciamo il punto sull'importanza della prevenzione. Le donne sono più protette sia in una menopausa da uno scudo, una specie di scudo ormonale per quel che riguarda lo sviluppo delle malattie cardiovascolari, in particolar modo la cardiopatia ischemica, quindi la malattia delle coronarie, ma non solo. Però dopo questa, diciamo, fascia di età, questo scudo viene a cadere e addirittura le donne possono avere più problemi cardiovascolari degli uomini e qualche volta anche più gravi. Cosa significa? A che età è giusto iniziare a fare prevenzione? La prevenzione è che vuol dire stili di vita, va fatta il più precocemente possibile. Si va a divulgare la prevenzione cardiovascolare anche nelle scuole, per cui a cominciare dall'alimentazione, no? Perché tutti quanti mangiamo male, anche i bambini. Questi check-up dei Bollini Rosa invece da che età andrebbero fatti? Per quanto riguarda le donne, della menopausa sicuramente, però col proprio medico curante si possono indagare quelli che sono i fattori di rischio e si può cercare di abbatterli, no? Ecco, anche prima di questa età. La medicina negli ultimi anni sta cercando di cambiare il proprio approccio specializzandosi sempre più nel genere. È importante questo? Siamo diversi tra uomini e donne? Siamo diversi tra uomini e donne, forse altro che dal punto di vista ormonale e conseguentemente anche di comportamento, per cui è importante focalizzarsi su certe problematiche che sono più genere specifiche. E poi c'è anche il fatto che le donne, per quel che riguarda la medicina fondata sulle evidenze scientifiche, vengono arruolate poco negli studi che valutano le varie terapie, sono poco arruolate per tutta una serie di motivi al di sotto del 40%. Quest'anno Sharper, la notte europea dei ricercatori a Trieste, dedica un ricco programma di attività alle scuole, per il quale sono già aperte le prenotazioni. Da oggi a venerdì gli studenti potranno partecipare a tanti incontri con ricercatrici e ricercatori direttamente nelle classi, con l'obiettivo di instaurare con loro un dialogo aperto ed informale sui diversi ambiti della ricerca e sul mestiere di ricercatore. In altri luoghi della città ci saranno spettacoli, una mostra, un'attività speciale per la scuola dell'infanzia. Sono eventi che anticipano la notte dei ricercatori, che si svolgerà il 30 settembre in tutta Europa. Da stamane in piazza Sant'Antonio a Trieste anche la mostra Terremoti d'Italia, a cura della Protezione Civile di Università di Trieste OGS e Immaginario Scientifico, che porta gli studenti alla scoperta del fenomeno sismico. Inaugurazione ufficiale ieri per il nuovo parco rifugio EMPA Udine, un traguardo raggiunto nonostante la pandemia e la crisi energetica. Ma sul riscaldamento dei box che ospitano decine di cani e gatti non si può risparmiare, hanno detto i responsabili. Fondamentali saranno ancora le donazioni dei privati. Il nuovo parco rifugio EMPA di Udine ha vissuto una giornata di festa attesa da diversi mesi, ma rimandata anche a causa della pandemia. L'inaugurazione ufficiale. Elena Riggi, presidentessa della sezione di Udine dell'EMPA. Finalmente i nostri ospiti hanno degli spazi adeguati, hanno la possibilità nella stagione invernale di avere riscaldamento pavimento, hanno la possibilità, ad esempio i gatti, di avere anche raffrescamento, delle grandi aree di sgambamento sia per i cani che per i gatti, tutto in sicurezza. Le donazioni private hanno finanziato all'80% la realizzazione dei 5 padiglioni per i cani, i 3 per il gattile e il corpo uffici, ma saranno fondamentali anche per il sostentamento economico di fronte a bollette in aumento. Se i cuccioli ormai trovano casa via social, qui arrivano quelli che nessuno vuole, cani e gatti ammalati oppure portati via da maltrattamenti o situazioni di disagio. Onde evitare di scoprire troppo tardi di avere un animale che non si può gestire, ma anche all'insorgere delle prime difficoltà, così da scongiurare abbandoni, si può intraprendere un percorso formativo con un educatore, come quelli offerti in struttura. Lorenzo Vazzoler, educatore. Serve ad avere un'adozione sicura dove si fanno questi percorsi. Normalmente non ci sono rientri in canile se il percorso è fatto bene, e questo aiuta sicuramente sia la serenità della famiglia che l'animale che trova una casa dove è possibile essere gestito. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora gli spettacoli, la musica, con l'inizio a Trieste ieri della rassegna ideata oltre 20 anni fa da Massimo Belli, direttore dell'Orchestra Busoni. Sono state le note di Giuseppe Tartini a inaugurare la 22esima edizione delle mattinate musicali internazionali della nuova orchestra Ferruccio Busoni di Trieste, un ciclo di 11 matinee concertistiche che fino a febbraio si svolgeranno nella Sala Luttazzi del magazzino 26 del Porto Vecchio e al Museo Revoltella, con un programma che coinvolgerà musicisti di fama internazionale, come ad esempio la violoncellista coreana Mihae Ryo, e spazierà da Mozart a Mahler, da Beethoven a Schubert, fino al Canto del Silenzio, composto dalla prima viola del teatro alla Scala di Milano, Simonide Bracconi, in memoria delle vittime della pandemia. Massimo Belli, direttore dell'Orchestra Busoni e direttore artistico delle mattinate musicali internazionali. Poi ripeteremo un programma che abbiamo fatto lo scorso anno, che comprende le 8 stagioni di Vivaldi e di Piazzolla col violinista Lucio Degani, e concluderemo poi con il primo violino e la prima viola della RAI di Torino in un programma interamente dedicato a musiche di Mozart. Poi non potevamo farci sfuggire questi due anniversari, perché quest'anno ricorre il 330esimo anniversario della nascita di Tartini e il 300esimo anniversario della nascita di Pietro Nardini, uno dei suoi allievi prediletti. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati specificamente ai ragazzi delle scuole e anche alcuni concerti e prove aperte dedicati agli studenti dei conservatori di musica di Trieste e Udine. Si chiameranno La sedia accanto al musicista, e gli studenti avranno la possibilità di sedersi proprio accanto al musicista, ecco perché il titolo, e ad assistere non solo alla prova generale, per cui ad un'esecuzione, ma proprio ad assistere alla prova, cioè come si monta un concerto, come si studia e si prova per un'esecuzione pubblica. Trieste, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport. L'audace sailing team dell'Università di Trieste si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il trofeo 1001 Vela Cup. Andrea Parmegiani e Francesco Ripandelli, a bordo di Bailina Rossa, hanno vinto la tradizionale regata in cui si sfidano imbarcazioni a vela progettate, costruite e condotte dagli stessi studenti universitari. A completare il trionfo del team c'è il secondo posto conseguito da Petra Gregori e Giovanni Sandrini su Dedalo, un'imbarcazione campione uscente che consentono a Uni Trieste di salire sui primi due gradini del podio davanti alla barca del Politecnico di Torino. Michele Bonetti, team leader di Audace, ha voluto esprimere la gioia di tutto il gruppo. Per noi è una grande soddisfazione e anche una conferma, perché l'anno scorso all'esordio siamo riusciti a vincere con la nostra prima barca in legno, e quest'anno siamo ripetuti con un nuovo progetto che va a completare un po' il percorso di 3 anni ormai, che è iniziato nel 2020. La cosa particolarmente significativa è che questo trofeo di fatto premia sì le abilità sportive, ma soprattutto l'ingegno, perché le barche sono costruite da voi. Sì, la cosa particolare che rende unico e speciale questa regata è che viene alla fine di un anno di lavoro che è prima progettuale, di studio, quindi siamo studenti di ingegneria, e poi consultivo, perché i progetti che facciamo li mettiamo in pratica direttamente noi nel laboratorio dell'università, insieme a studenti che non sono solo di ingegneria ma vengono da tutti i corsi di laurea. Michele, tu sei all'ultimo anno di ingegneria navale della laurea magistrale, vieni dalle Marche, hai scelto Trieste, il tuo futuro dove lo vedi? Io spero di riuscire a trovare uno spazio nella progettazione nautica, perché è la mia passione. La mia passione per l'ingegneria nautica e navale nasce dalla passione per la vela, e quindi spero proprio di riuscire a trovare un futuro in questo ambito. È uno sport che hai fatto fin da bambino? Sì, sin da piccolo, tramite la passione che mi ha trasmesso mio papà, ho iniziato a fare corsi di vela, poi ho praticato a livello agonistico il laser, e poi una volta finito il liceo appunto ho deciso di mettere insieme lo studio e questa passione. E grazie al progetto di Audace, che ho scoperto al terzo anno di ingegneria, è stato possibile unire le due cose, quindi veramente lo studio, metterlo in pratica in un progetto che poi prendesse vita. Canottaggio, è ritornata nella sua Trieste Maria Elena Zerboni dopo l'oro conquistato ai mondiali in Repubblica Ceca nel due senza pesi leggeri in coppia con Samantha Premerl. L'abbiamo incontrata al Circolo Saturnia, dove ha iniziato a vogare all'età di 9 anni sotto la guida di Spartaco Barbo. Sentiamo le sue emozioni. Quanto vale un oro mondiale? Vale tanto. Io e Samantha siamo molto contente, siamo reduce di questo titolo assoluto. E siamo molto contenti di aver coronato la stagione agonistica col titolo mondiale, però anche col titolo mondiale nella nostra categoria Under 23 e quello europeo. Il fatto che abbiate vinto il titolo Under 23 e poi il titolo mondiale significherebbe che avete ancora una lunga strada davanti a voi. Sicuramente, ormai è da anni che gareggiamo nel canottaggio e per noi è veramente una grande emozione aver vinto questa medaglia qua. Ci sono dietro comunque tanti anni di sacrifici, di allenamenti, però vincere e tagliare il traguardo per prime dà veramente molta soddisfazione. Avete dominato la gara. Quanti allenamenti fate durante la settimana? Allora, noi durante la settimana ci alleniamo per 12 volte alla settimana e anche 2 volte al giorno, quindi alla mattina ci troviamo qua al Saturnia alle 7 di mattina, usciamo in barca e facciamo il lavoro previsto e poi il pomeriggio ci ritroviamo qua per la seduta di pesi. Con Samantha, visto che passi gran parte della tua giornata, sei anche amica fuori dalla canoa? Certo, è molto importante la sintonia con il compagno di barca. Io e Samantha, ma anche insieme al nostro allenatore, ormai siamo una coppia inseparabile. È veramente fondamentale avere una giusta sintonia sia di fuori che all'interno della barca. Mai nessun litigio, neanche per magari se a tutte e due piace lo stesso ragazzo? Purtroppo a volte succede che durante alcuni allenamenti abbiamo delle idee discordanti, però alla fine, una volta che siamo in partenza e siamo in gara, tutti e due abbiamo l'unico obiettivo di fare del nostro meglio e sappiamo benissimo ognuna cosa vuole e diamo tutto in gara. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Una notizia che riguarda il basket: Pallacanestro Trieste ha fatto sapere che AJ Packer sarà sottoposto oggi ad accertamenti strumentali alla spalla sinistra, dolorante dopo un forte contatto di gioco subito sabato nella sfida con Treviso al Palacornaro. Buone notizie dall'infermeria arrivano invece da Frank Bartley, la cui TAC alla testa ha dato esito negativo, sarà rivalutato dai medici anche nelle giornate di oggi, se non ci saranno controindicazioni riprenderà a lavorare con la squadra. Ora una notizia di calcio femminile, Serie B: il Talavagnaco è stato battuto in casa dalla Lazio per 2-0. Il presidente del CONI del Friuli Venezia Giulia, Giorgio Brandolin, stasera consegnerà le benemerenze CONI alle persone che si sono distinte nello sport. La cerimonia avrà inizio alle 18 nel Teatro Gustavo Modena a Palmanova. 66 premiati, con riferimento all'anno 2020, diverse le categorie, verranno premiati i dirigenti, gli atleti, gli allenatori e anche gli atleti paralimpici. Sono le 7:46, diamo uno sguardo ai giornali in edicola. Il Piccolo esce in edizione unica con Trieste, Gorizia e Monfalcone. Naturalmente la prima pagina apre con il titolo politico: vince Meloni, titolo al quotidiano con una grande fotografia della leader di Fratelli d'Italia alle urne. La maggioranza al centrodestra con Fratelli d'Italia primo partito, crolla la Lega di Salvini, Senato regionale Ciriani in netto vantaggio. E poi il PD di Letta, la rimonta dei 5 Stelle e Azione e Italia Viva che non sfondano. Si parla anche di affluenza, la grande fuga dalle urne con Trieste, maglia nera. Con richiamo in prima l'intervista al sociologo e fondatore del Censis Giuseppe De Rita, che dice: alle urne è andata un'Italia sfibrata e senza più fiducia. Nelle pagine interne il caso a Gorizia, schede per il Veneto, errore di consegna in alcuni seggi. E poi il racconto della giornata di voto a Gorizia: un elettore si è presentato alle 6:30 del mattino ma ha dovuto aspettare mezz'ora che aprissero le urne. A Trieste la sorpresa delle file in alcuni seggi. La pagina della cronaca cittadina di Trieste apre con la polizia locale: appuntamento con le armi rinviato verso fine anno. L'apertura della pagina di Gorizia si parla di Deor, iter semplificato per sedie e tavolini. A Monfalcone i furti nei negozi del centro, raid notturni di un ladro spacca vetrine. Meloni, primo partito, titola in apertura il Messaggero Veneto, edizione unica oggi di Udine Pordenone, con una foto anche qui della leader di Fratelli d'Italia al momento del voto. A destra le storie di due elettori, Gina Schiavi, 102 anni, che ha votato da casa, e uno dei diciottenni andati per la prima volta alle urne. Si tratta di Luca Conta, che dice: mi sono emozionato, è in ballo il mio futuro. In taglio basso la partenza ieri della colonna della Protezione Civile a sostegno delle Marche travolte dall'alluvione del 15 settembre, ancora donne e anziani, altri titoli per il voto, a spingere appunto l'affluenza alle urne. Poi il caso di Cordenons, dove una commerciante spazientita ha scritto di aver stracciato la tessera al seggio per lungaggini, a suo avviso inaccettabile, a Zoppola, dove il consigliere comunale Gianni Sartor, candidato per Noi Moderati, ha chiesto di poter scattare una foto mentre inseriva nell'urna le schede, cosa che gli è stata negata, così come uno scatto con il braccio del presidente del seggio. Poi da Valvasone Arzene, sindaco e consigliere con guanti, tuta e mascherine per far votare anche i positivi al Covid. Nelle pagine cittadine di Udine, il parco rifugio dell'EMPA, che può accogliere 200 cani e 100 gatti, un investimento da diversi milioni. Poi il muro della chiesa ortodossa, sempre a Udine, a Santo Osvaldo, imbrattato con delle svastiche. Nella cronaca di Pordenone in primo piano invece c'è Un secolo di teatro, la svolta con la mossa di Cardinda, sindaco acquistò il vecchio fabbricato per quasi 3 miliardi di vecchie lire per consentire la ricostruzione. L'onda lunga di Fratelli d'Italia è il titolo d'apertura del Gazzettino d'Orso del Friuli. Nella foto a centro pagina una fila di elettori in attesa ad un seggio, balzo in avanti di Meloni, tiene il PD, la Lega perde terreno. I 5 Stelle sperano nel proporzionale, titolo poi per il maltempo di ieri, pioggia nella bassa, allagate strade, case scantinati. Poi la Protezione Civile con i 60 volontari arrivati nelle Marche, di spalla dalla Regione i contributi per le imprese che operano con l'estero. E sotto premiate le eccellenze delle mele regionali. In taglio basso il calcio. Udinese, 8 partite per entrare in Europa. In taglio alto c'è il nuovo parco rifugio EMPA di Udine, che guarda al benessere dei quattro zampe. Sull'edizione di Pordenone in prima pagina, oltre al voto, c'è il trasporto pubblico, la flotta dei bus ecologici, se mezzi contro le PM10. Poi la mela più buona, premiata la festa di Pantianicco, che arriva da Maniago, e la donna caduta in montagna in Val settimana scorsa, ieri soccorsa ieri dall'elicottero. In taglio basso il calcio di Carlo, allenatore del Pordenone, rilancia il Padova, non ci ha ridimensionati. Alcuni appuntamenti: concerto inaugurale della stagione del Teatro Verdi di Pordenone alle 20:30, le celebrazioni del centenario del Teatro Pordenonese con il concerto evento della Mahler Chamber Orchestra diretta dal maestro norvegese Leif Ove Hansens, l'ensemble fondata da Claudio Abbado, 45 elementi provenienti da 20 nazioni diverse, eseguirà un programma musicale nel segno di Mozart. Al via la 35esima edizione della stagione concertistica Note del Timavo per la sezione classica nella chiesa gotica di San Giovanni in Tuba alle ore 21. Il chitarrista Massimo Felici. Saranno 7 concerti in programma in questa sezione dedicati a grandi solisti, alla grande musica da camera, alla musica antica. E sarà il coro polifonico Sant'Antonio Abate di Cordenons, coro di interesse nazionale per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, diretto da Monica Malachin, ad aprire la nuova stagione con le attività dedicate ai giovanissimi, l'Antoniano dei Piccoli, percorso per scoprire il mondo del canto, dedicato a bambine e bambini dai 3 ai 16 anni, che potranno scoprire l'uso della voce e del corpo, ascoltando il respiro. La prima lezione alle 17:30, aperta a tutti nella sede del coro a Cordenons, in via Chiavornico 51. A Trieste, nella sala Tartini del Conservatorio, il sistema LOLA, interconnessioni musicali a distanza, un percorso nella nuova tecnologia della musica che rende possibili collegamenti ad altissima efficienza per esecuzioni musicali a distanza alle ore 18. Ora un'informazione: da oggi a giovedì 29 settembre l'ufficio postale di Tolmezzo di via Carnia Libera sarà interessato da lavori interni per tutte le operazioni postali e finanziarie. L'utenza potrà rivolgersi all'ufficio postale di Terzo di Tolmezzo in via Baracca 63, che fino a giovedì resterà aperto con orario dalle 8:20 alle 19:05. L'ufficio postale di Tolmezzo riaprirà poi venerdì 30 settembre. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali, l'edizione flash del giornale radio. A seguire WEOF Velindi parlerà dell'attività di formazione dell'Università di Udine nell'ambito dell'agricoltura sociale e del welfare di comunità. Alle 11:20 la radio che pedala, si parlerà di sicurezza in bicicletta e di riabilitazione e le novità per i ciclisti legate al progetto per la riqualificazione del Porto Vecchio a Trieste. Alle 11:55 fotoradiografie sul ruolo della fotografia in ambito sociale. I programmi regionali tornano poi alle 14. È tutto, in regia Mauro Cumin e Paolo Cassano, in redazione ha collaborato Manuel Bussani, da Anna Vitaliani e Rita Micoli che hanno redatto questo giornale radio insieme ad Andrea Vardanega. L'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.